Ciao a tutte le compagne e i compagni che si stanno collegando con Radio Asilo. Ci sono tantissime cose da fare, da dire, anche perché diciamo questa è la, dopo un po' di tempo ritorniamo a fare in diretta la trasmissione dal centro sociale. E, diciamo un po' di cose. Noi in tutto questo periodo in cui diciamo le trasmissioni hanno avuto un piccolo rallentamento perché sono state dovute ai lavori che abbiamo svolto nel centro sociale per rendere più agibile la struttura, più accogliente, anche in preparazione di questo autunno che climaticamente non si capisce come sarà, e anche per attrezzarci ad affrontare questa storia dei Green Pass, che per noi rischia di diventare un qualche cosa anche dal punto di vista di autofinanziamento un grande problema. Allora sono tantissime le cose, non peraltro noi abbiamo diciamo la canzone di apertura di questa trasmissione. È l'unica notizia bella, perché questo movimento che vede tutti questi giovani, oggi a Milano c'è stata una grandissima manifestazione, l'unica cosa, l'unica notizia buona di questo lungo periodo. 50, più di 50.000 ragazzi e ragazze hanno sfilato per le vie di Milano con lo slogan un mondo migliore possibile, un mondo migliore è necessario. Per la giustizia climatica, insomma, è stata, ecco, è una cosa che ci rallegra il cuore vedere questa nuova generazione di sedicenni, di adolescenti che vogliono cominciare ad essere protagonisti del proprio futuro, partendo proprio dalla questione ambientale, che è il futuro al nostro, nostro pianeta. E per ciò che riguarda l'Italia, con questo ministro Cingolani e Draghi che guida questo governo, non ci sta nulla da stare tranquilli. Perché diceva è l'unica notizia buona, tanto è vero, un attimo, una sigaretta, perché cominciamo da quella cosa che ci ha fatto proprio incazzare, indignare, che mentre lo Stato si autoassolve con l'assoluzione di Dell'Utri, Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere, con anche un'ammenda di 700.000 euro. Ed è una cosa vergognosa, veramente da rabbia. È chiaro che in questi giorni, in queste 24-48 ore si stanno svolgendo anche delle manifestazioni anche nella nostra città. Al Porticciolo si sta facendo un presidio per dimostrare, per dare la solidarietà a Mimmo Lucano. Mimmo Lucano è l'ex sindaco di Riace, che è diventato il simbolo di un modello di integrazione ed accoglienza possibile. E diciamo, ed era anche, al di là del fatto dell'accoglienza, aveva anche lanciato un modo di come ripristinare i paesi dell'interno del sud, paesi spopolati per via dell'emigrazione, paesi spopolati per via della miseria, paesi spopolati per tantissimi motivi. Ed è una cosa vergognosa, ribadisco, che mentre ecco, lo Stato si autoassolve con la sentenza politicamente scandalosa ma chiara nel suo intento dell'assoluzione di Dell'Utri. E non c'è solo questo, abbiamo anche la vicenda della strage continua di lavoratrici, di lavoratori in Italia. Oggi ne sono morti altri tre, mi sembra. E quindi a 672 morti, se aggiungiamo questi tre, diciamo sono 775 morti nei primi 8 mesi del 2021. E come stanno le cose, il numero tende sempre ad aumentare. Diamo un poco di brutti e tristi numeri. Le denunce di infortuni sul lavoro nei primi 8 mesi del 2021 sono aumentate dell'8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Quelli mortali sono stati 772 in più rispetto, quindi 775 in più rispetto alla rilevazione. Cioè 90, 95 in più, quindi 775, e ce ne sono stati da luglio ad ora, questo fino a luglio, insomma. Insomma, noi siamo 95 in più dall'ultima rilevazione di luglio, quindi siamo a 775, una strage continua. E poi abbiamo, diciamo, altri tristi numeri, che è la crescita degli incidenti durante il percorso verso l'abitazione nel luogo di impiego, che sono passate da 38.001 a 45.821. E dov'è che questo picco di questa strage continua, diciamo, le regioni? Insomma, abbiamo il centro Italia più 14,5%, il nord-est più 13,6%, ma il picco più elevato è nel sud, in Basilicata, in Molise, in Campania, in Calabria. E l'aumento riguarda, in ottica di genere, la componente maschile, più 14,7%, quindi, mentre per le donne, che già sappiamo che sono estromesse dal lavoro, vengono proprio calcolate, diciamo c'è una leggera diminuzione, in base al fatto che l'esclusione al mondo del lavoro delle donne aumenta sempre di più. E vediamo che i lavoratori italiani infortunati sono stati il 7,8% in più del 2020, e quelli extracomunitari sono cresciuti del 14,5%. Poi abbiamo quelli appartenenti agli emigrati dell'Unione Europea, sono il 2,5% in più. Con l'età abbiamo che un incremento per la fascia d'età che va tra i 20 e i 49 anni, che ci sta un aumento del 9,9%, e tra gli over 50 del più 3,5%. Il tutto mentre, ecco, per dire, l'ultima notizia di una nuova fabbrica che avvia, quella la Iguzzini di Recanati, che avvia il licenziamento collettivo di 103 lavoratori. E ricordiamo che il gruppo ha chiuso il 2020 inutile, nonostante il Covid, e che stanno pure gli aiuti dello Stato. Vediamo che diciamo, i dati Istat sull'occupazione mostrano che nel mese di agosto gli occupati sono calati di 80.000 unità su luglio. Si contano 13.000 dipendenti stabili in meno. Ed è da ricordare che il blocco del licenziamento dell'industria è finito a luglio. E poi sono stati conclusi 62.000 contratti a termine. Quindi, insomma, mentre si muore, mentre continua la mattanza di donne e di uomini, e noi vediamo che il problema occupazionale rimane sempre quello, precarietà totale, licenziamenti, quindi aumento più dei ricatti verso i disoccupati e le disoccupate. E diciamo, è una situazione diciamo che andrà sempre di più a peggiorare. Quindi, ecco, magari diamo un po' di pausa musicale e poi man mano entriamo dentro sui temi che avevamo parlato. È chiaro che diciamo. Ecco, la cosa importante è appunto che ciò che riguarda noi, che la radio come strumento di informazione e controinformazione sta riprendendo dopo non chiamiamola pausa estiva perché abbiamo lavorato con quel caldafuso a sistemare il centro e in più ecco, c'è stata una cosa importante quest'estate che siamo stati ad Ostuni, nel climate camp di Ostuni, che è stato anche questo molto interessante e siamo impegnati a dare continuità sulle tematiche che ci eravamo prefissi, la questione meridionale, la questione palestinese di una rete meridionale andala e la questione appunto del precariato. Lavoro e disoccupazione e poi entreremo pure nella vicenda del Green Bus. A fra poco. Not afraid to be honest, empowered by you. Listen, girl, you're not alone. We just feel the same. We need to make a difference. This is our aim. We all see the problems, and we are scared. Our future in danger, and nobody cares. Come on, girls, it's Friday. It's time now to shout. Come on, boys. Con la canzone Curcurru Vagliù è chiaro che, come devo dire, è da auspicio appunto che stiamo riprendendo le attività dopo i lavori, come abbiamo detto prima, E diciamo, come buon auspicio per una ripresa anche di un fronte di opposizione antagonista a livello partire dalla realtà meridionale, perché no, ripartire da quella, dai centri sociali del meridione, dai collettivi, associazioni, movimenti e gruppi sparsi in tutto il meridione. Continuiamo, ecco, abbiamo finito con la questione delle stragi sul lavoro, abbiamo visto come i posti di lavoro si perdono, i licenziamenti vanno a gonfie vele, i padroni hanno fatto ingenti profitti durante il periodo del Covid, licenziano pur se essendo inattivo, delocalizzano e speculano sugli profitti finanziari, tutto a discapito del futuro di tanta umanità che rischia di rimanere senza una lira, con famiglie a carico, con mutui da pagare, con figli disoccupati, senza nessuna prospettiva per il futuro. E questa è l'ulteriore vergogna. E poiché, ecco, Draghi, che è, diciamo, è la quintessenza finanziarizzazione, diciamo, delle regole sociali, del capitalismo finanziario industriale, il grande protettore degli interessi e dei profitti patronali, ecco, entriamo nell'altra vicenda che, diciamo, nei giorni scorsi c'è stata l'Assemblea Nazionale della Confindustria, dove Bonomi, ricordiamo, a Palazzetto dello Sport dell'Euro a Roma, e il titolo dell'incontro è un tutto dire: scegliere di cambiare. È una minaccia. Cioè, è una minaccia, e nello stesso tempo, come devo dire, la consapevolezza che si sono creati tutte le condizioni per fare quello che vogliono questi padroni. 1700 gli invitati, imprenditori, politici, mascherine d'obbligo, green pass obbligatorio, inno nazionale, addirittura questo hanno proiettato il lungometraggio ideato da Confindustria dal titolo 111, che è, diciamo, sta a evocare gli anni della Confederazione della Confindustria, quindi della Confederazione di questi, tutti questi dei padroni, nel 1911. E, diciamo, addirittura questa è stata presentata all'ultimo Festival di Venezia. C'hanno un coraggio barbaro, proprio una platea, come devo dire, da far vomitare. È chiaro che Draghi lo ha detto: noi non aumenteremo le tasse, vale a dire, voi non pagherete nulla, voi che inquinate, voi che licenziate, voi che fate solo profitti, non pagherete nulla, pagheranno l'azienda, pagheranno gli operai, pagheranno i dipendenti pubblici, che sono il bancomat, i pensionati, i dipendenti pubblici, i lavoratori precari, che sono le categorie lavorative umane che sono il bancomat per tutti i guai che hanno combinato, che hanno i furti che hanno combinato i padroni. È chiaro che poi con gli slogan, basta le espressioni, basta rinvii, basta giochetti, basta veti, davvero basta. Bonomi ha espresso la preoccupazione per noi rispetto ai conflitti sociali, alle lotte di classe e delle lotte nei posti di lavoro, per il cronoprogramma per le riforme legate al PNRR che rischia di slittare, e quindi diciamo che la Confindustria si opporrà a tutti coloro che vorranno intracciare il processo delle riforme. E poi è chiaro, non poteva non mancare a chi filta con i Novax. Ci hanno fatto proprio la pizzaiolo, proprio per non dire altro. Ci hanno rotto proprio le scatole, Novax, con la scusa Novax, Green Bay, che non ci azzecca niente con tutta questa storia dei profitti. Anzi, hanno tratto più profitti e stanno traendo più profitti i padroni in questi più di 2 anni che non si era mai visto. È chiaro che poi finiscono con che c'è Bonomi ha lanciato diciamo, come devo dire, lo slogan Un patto per l'Italia, che è rivolto direttamente alla CGIL, CISL, GUIL, quindi nelle persone di Landini, Sbarre e Bombardieri. Dicendo noi dobbiamo lavorare insieme, e hanno avuto il barbaro coraggio di un patto per il lavoro sulla sicurezza del lavoro, politiche attive, smart working, e questo diciamo e sarà un'altra cosa da sorvegliare, da analizzare, da riflettere per prepararci ad attrezzarci. E poi è chiaro che non poteva mancare la questione del blocco dei licenziamenti, che è stata una sciocchezza. Infatti guardo con una faccia di corna detta da Bonomi, ha detto che non ha impedito il blocco dei licenziamenti che nel 2020 ha determinato la perdita di quasi 1 milione di occupati o non lavorate per lunghi periodi, cioè proprio a dire, cioè proprio, è una cosa proprio da mettere, cioè proprio non lasciamo perdere, se no uno proprio. Cioè proprio loro che licenziano, e compagnia vale, poi dicono non so per colpa di chi, anche con il blocco noi abbiamo licenziato, e dicono che è stata una sciocchezza, cioè proprio una cosa assurda, noi siamo costretti a sentire delle affermazioni e via dicendo. Poi è chiaro, rispetto a chi pone il problema del salario minimo sarà necessario, dice che questo nuovo ammortizzatore universale deve essere solo di tipo assicurativo, cioè loro un bon, paga niente. Allora, e quindi vedono, diciamo, come devo dire, questi sono così consapevoli della propria forza acquisita, insomma, con questo, specialmente con il governo Draghi e tutti i suoi lacchè, che diciamo stanno cacciando diciamo tutto ciò che il capitalismo storicamente è, insomma, profitto per il profitto, a discapito della povera gente, a discapito del pianeta, a discapito dell'umanità. Profitto per il profitto. E questa è la vicenda. Ora è chiaro che, come devo dire, questa è chiaro che diciamo su ogni un attimo, ci sono tolta la sigaretta. Cioè, queste due, tre cose, queste cose, diciamo, è un insieme di cose, perché ci sta tantissimo da dire, tantissimo da analizzare, tantissime cose su cui mobilitarsi, tantissime cose su cui riproporre un fronte di opposizione politico serio. Contro, diciamo, non solo contro il governo Draghi, ma contro sempre di più, contro il capitalismo, contro la globalizzazione e contro, ecco, per ciò che riguarda noi in Italia, la questione del diciamo dei recovery fund, del PNR, a partire dalla questione energetica. E entriamo in un altro tema, il tema della che è di una cosa che diciamo è sempre più, magari rimandiamo oppure lo deleghiamo a diciamo a forme singolari, individuali di riflessione e di atteggiamento. Parliamo del Green Pass. Allora, chi vi parla è un dipendente pubblico. Chi vi parla ha paura del Covid, non si fida del vaccino, ma rifiuta il Green Pass. Quindi, come devo dire, stiamo assistendo a, diciamo, a una situazione che sta veramente lacerando non solo i rapporti politici, ma anche familiari. Insomma, si è creato questa storia del Green Pass, è un ulteriore tassello, diciamo, della resa difficile della vita di tantissime persone. Ed è chiaro che non si può far finta di nulla. Mi accorgo che ci accorgiamo che anche tra compagni sta iniziando un dibattito su questa situazione del Green Pass. Non peraltro sono iniziate pure le raccolte delle firme per il referendum del Green Pass, che può essere, come devo dire, una forma laica per diciamo riuscire a superare alcune lacerazioni che, come dicevo prima, si stanno verificando tra noi, e che molto spesso stanno condizionando nostro agire politico proprio per colpa veramente di questi faccimi di Covid, come abbiamo detto anche in altre volte. Il problema, ecco, noi partiamo da piccoli esempi. Noi all'ingresso delle iniziative musicali che stiamo facendo in questa dalla ripresa dall'ulteriore, cioè dopo qui periodo, diciamo, agostale, e dopo i lavori che abbiamo fatto, noi diciamo solo da un punto di vista statistico poniamo il problema. Ecco, noi misuriamo la febbre, chiediamo solo a livello statistico, proprio una statistica anche in virtù di una preparazione di come poter affrontare questo periodo autunnale. Ricordiamo che noi i concerti, le iniziative musicali sono le nostre uniche forme di autofinanziamento in grado di poi farci pagare le bollette della luce, le bollette dell'acqua e via dicendo. E che, diciamo, noi dobbiamo attrezzarci per il futuro, e poiché è chiaro noi ci rifiutiamo di chiedere il Green Pass a coloro che diciamo entrano, e ci stiamo accorgendo pure che il 90% di chi viene ai concerti è vaccinato, ha il Green Pass, però non ci rifiutiamo di farlo mostrare. Ma può essere una scelta irrazionale, ecco, pur attenendoci alle norme igieniche, alla mascherina, teniamo il misuratore della febbre, compagnia varia, noi non chiediamo che ci venga esposto il Green Pass, nell'eventualità, ma anche perché per attrezzarci, perché dopo il 15 ottobre diciamo la situazione peggiorerà, allora come, che fare? Noi, avendo una statistica chiara di quante persone siano vaccinate che abbiano il Green Pass, il problema è, diciamo, se vogliono romperci le scatole polizie, carabinieri e vigili urbani e quant'altro, è un problema che deve essere posto fuori dal centro sociale, che non deve coinvolgere pienamente i centri sociali. Il problema proprio per la nostra autotutela, perché che si ha scuse che potrebbero entrare nei centri sociali, fare irruzione nei centri sociali con la scusa dei Green Pass, diciamo possono romperci le scatole, e questo è un serio problema, cari compagni e compagni. Quindi come fare per affrontare ed uscire e superare questa fase di enorme confusione, a volte di dibattiti anche sterili, perché il problema è chiaro, noi almeno chi vi parla non è un Novax, anzi sto molto attento ai Novax, ma è contro il Green Pass, che è ben cosa diversa. E se noi, io vivo in un ufficio pubblico, molti colleghi, per dire, non sopportano questa ulteriore forma di restrizione delle libertà individuali, diciamo, nei posti di lavoro. E sono incazzati. Allora il problema, diciamo, comunque il problema esiste, comunque, a meno che vi parla, ha la consapevolezza che il problema Covid esiste, però non può essere affrontato né con sistemi coercitivi né con che la caccia agli untori, che è poi alla fine, compresi il Green Pass, servono a far dimenticare le gravi responsabilità e le cattive gestioni dei vari governi nelle varie fasi del pre e durante la diffusione del Covid-19 in Italia. Non cioè, questi servono, e la storia del Green Pass è diventato una vera arma di distrazione, di massa. È chiaro, ecco, per dire, noi, un attimo che la sigaretta si spegne. Allora, ed è normale che però così non possiamo stare, non possiamo, come devo dire, avere un ruolo né di spettatori né di attendisti, perché noi fra poco saremmo chiamati ad affrontare questo serio problema del Green Pass. È chiaro che allora il problema qual è? Che bisogna magari tentare, come compagni, ecco, di affrontare questo problema del Green Pass come abbiamo affrontato, utilizzando anche forme creative, anche di autodifesa mentale. Come abbiamo resistito durante la pandemia, quindi il ruolo delle radio, cioè noi dobbiamo riapproparci di forme creative e nello stesso tempo laico, di come uscire da questa situazione. Questo è il problema. E quindi la questione qual è? È che noi dobbiamo almeno ritornare a quel che durante questo periodo della pandemia ci siamo detti, e qua paghiamo anche un grande ritardo. Noi abbiamo avuto tutto il tempo necessario per affrontare la questione dei recovery fund, abbiamo avuto tutto il tempo per affrontare e approntare una piattaforma d'opposizione sociale senza rincorrere ciò che sta succedendo attualmente e i progetti di restaurazione di concezione draghiana. Noi stiamo rincorrendo, eppure abbiamo avuto più di un anno per magari trovarci pronti ad affrontare questa quell'applicazione, appunto, che ora si chiama il PNRR, eccetera eccetera, quindi su tutte le tematiche, l'uso della tecnologia, la privatizzazione della sanità, la privatizzazione della scuola, il tenere perennemente in precarietà varie forme di categorie lavorative, solo profitti per i padroni. E questo qua denotiamo un ulteriore ritardo. Queste sono le situazioni che, ecco, ora è chiaro che siamo in una fase elettorale nel Salerno, ormai è da maggio che siamo in una fase continua e costante clima elettorale, che magari impedisce anche che il lavoro politico, di iniziative che fai, vengano distratte, distorte da questi climi elettorali. Fortunatamente noi abbiamo cercato in tutti i modi di rimanere indenni da questo clima molto ipocrita. Poi a Salerno questa è una cosa che magari approfondiremo in un'altra trasmissione. E quindi, come devo dire, noi ecco, siamo in enorme ritardo per affrontare veramente, per trovarci preparato preparate anche a questo nuovo autunno che diciamo si prospetta anche sui conflitti molto ma molto delicato. Guardate, basta vedere quello che hanno combinato i reparti della Guardia di Finanza e della CELAR a Milano su degli adolescenti, un gruppo di una quindicina di adolescenti, cioè, l'hanno caricato proprio a livello da fare schifo, compresa anche la questione dei compagni notavo, cioè, quindi abbiamo una lunga serie di problemi che saranno legati alla questione della repressione, per non dimenticare quel che successe nelle fabbriche di Prato, cioè, quindi, tantissime cose, insomma. E quindi. Ecco, noi dobbiamo uscire da questa fase di impasse e a volte anche di dibattiti sterili. E noi dobbiamo, come devo dire, siamo sempre più e diventa sempre più necessario quella di elaborare e programmare le piattaforme di lotta che non siano virtuali, ma che siano legate alla materialità del conflitto, perché la questione della virtualità e conflitto sociale rischia di rimanere qualcosa che perdurerà nel tempo. Ecco, dobbiamo renderci conto, come devo dire, che bisogna ritornare alla materialità del conflitto. Guardate, compagni, è un appello. Cioè, ed è normale che questa questione, ecco, anche perciò noi dobbiamo avviare, io quando parlavo della questione del referendum sul Green Pass, è la consapevolezza che questo problema ci sta, che coinvolge tantissime persone, anche alla manifestazione di San Giovanni che c'è stata, c'erano tantissimi compagni, ma anche la questione, ecco, della differenziazione da un popolo Novak, da un popolo. Dai Novax gestiti da Forza Nuova, dai fasci, da logiche anche di apparati criminali e via dicendo, questo è un dato di fatto, tanto è vero, stiamo vedendo che si sta verificando che sono proprio i Novax che sono contro questo referendum, perché diciamo, può mettere anche, come devo dire, può permettere anche la ripresa di mobilitazioni per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per diciamo, l'assunzione di personale sia nella scuola che nella sanità, di tantissimo personale, insomma, cioè la sanità per riprendere la sanità territoriale, perché il problema è proprio questo. E allora, proprio per levare perché bisogna prendere una consapevolezza. Nelle piazze che stanno sorgendo da un mese a questa parte, nelle piazze ci sono mamme, ci sono giovani, ci stanno tante persone di sinistra, ci sono diciamo, categorie culturali, è chiaro che ci sta pure chi, come devo dire, queste espressioni della dittatura sanitaria, ci sta pure il complottista, però come devo dire, non ci sta la prevalenza dei fasci e dei nazifascisti Forza Nuova e via dicendo. E quindi, prendere atto di questa cosa qua significa anche che il referendum ci deve vedere protagonisti, perché può essere anche un modo di coinvolgere questi nuclei familiari, queste mamme, che hanno genitori di bambini dai 5 anni in su, che sono costretti a stare 5 ore nelle classi con le mascherine addosso. Ma che scherziamo, insomma, cioè, e ci sono tutte le condizioni perché, diciamo, molte di queste famiglie, chi se lo può permettere, a rivolgersi a forme private della scuola e così come anche della sanità pubblica, che ormai almeno se noi in tutta Italia, specialmente nel meridione, la sanità territoriale, compresa Salerno, che diciamo, ecco qua apro una parentesi, Salerno è un laboratorio al negativo di quel che sarà l'Italia gestita da Draghi a livello nazionale. E facendo ecco, in termini pacifici, tante maledizioni a Crozza, il presidente della regione Campania, nonché sindaco reale della nostra città, sta portando avanti, ha preceduto Draghi, sta precedendo Draghi nell'applicazione delle norme e di tutti i piani reazionari, insomma, edilizia privata. E qualche settimana fa c'è stata una scuola in cui è crollato un soffitto, e fortunatamente non c'erano ragazzi, però sarebbe stata una strage. Edilizia privata a tutto spiano, l'uso della tecnologia, assunzione a convenzioni esterne, concorsi pubblici, tranne quello concorsone di cui sono state assunte 200 persone con fondi regionali europei destinati all'inclusione sociale, sono stati dirottati, costruzione di un ospedale che costerà 450 milioni di euro, non si sono assunti infermieri, medici, la sanità territoriale è messa al palo, è un macello, guardate, e quindi noi abbiamo la fortuna nella nostra città di capire e comprendere come combattere a livello nazionale quel che è previsto nel PNRR. Ecco, per dire, dalla privatizzazione della cosa pubblica, anzi l'estinzione della cosa pubblica come l'ente del comune, alla distruzione della sanità pubblica per favorire e foraggiare la sanità privata. È chiaro che, ritornando a questa questione del Green Pass, è chiaro che noi, anche per dire, noi abbiamo avuto anche nell'assemblea di Ostuni, abbiamo avuto un momento di assemblea con docenti e compagni e compagni che si sono opposte con molta chiarezza contro il Green Pass, acuendo anche alcune contraddizioni anche all'interno della Confederazione Cobas, che proprio perché la maggioranza è di insegnanti rispetto a questa tematica non si è espressa in un modo chiaro nella sua complessità, nonostante che il 70-80% dei docenti e non docenti dopo il 15 ottobre saranno sottoposti a forme repressive di sospensione dello stipendio e quant'altro. Allora è normale che, per dire, lungi da noi, cioè la questione, è chiaro che dobbiamo sempre porre il distinguo dalle teorie complottiste di scuola trampiane, insomma, questa è la faccenda, però dobbiamo comprendere che è arrivato, sperando che martedì si concluda questa campagna elettorale per ritornare in piazza e cercare anche di cooptare, di captare quelle nuove categorie sociali, quali sono le lavoratrici e le lavoratori dei grandi centri di distribuzione, dei docenti, personale paramedico, le famiglie, il problema, le mamme, ma la questione degli adolescenti, a partire dai bambini, perché noi dobbiamo cominciare ad ipotizzare concretamente che modello sociale di vita, che ecocompatibilità noi, che mondo ecocompatibile a partire dai nostri territori noi vogliamo creare. È chiaro che noi, se appena vediamo che in un po' di pioggia abbiamo straripamenti, fiumi che straripano, allagano e distruggono, e vediamo che per la riforestazione il PNRR non dà nulla, quando la grande opera è proprio la messa in sicurezza del territorio, sarebbe questa sì una grande opera da finanziare, che permetterebbe pure una piena occupazione, quindi dalla riforestazione, dal ciclo delle acque, dal rispetto delle norme, rafforzare gli argini dei fiumi, concepire un modello contro l'incremento del cemento, contro le grandi opere, se noi qua si stiamo, e che qua anche il il crozzavero, cioè il crozza vero del sindaco del, ecco, lapsus, ma è la stessa cosa, presidente della regione Campania e sindaco De Luca, è il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, lui fa e vuole il ponte sullo stretto di Messina. È una cosa micidiale, cioè siamo proprio, se non ci stesse da stare poco sereni, ecco, sarebbe proprio questa, assistiamo a delle tragiche farse commedie. È chiaro che, come devo dire, noi rispetto a questa tematica, come devo dire, dobbiamo riappropriarci delle piazze, che sembra una cosa strana, ma sino ad ora le piazze sono state occupate fortunatamente da mobilitazioni operai, come gli operai, la grande manifestazione in sostegno dei lavoratori e lavoratrici della GNK di Firenze, della Whirlpool, delle fabbriche, di altre fabbriche che stanno chiudendo. Allora, e diciamo, le piazze sono state, diciamo, presidiate da questo popolo contro il Green Bus. E per dire, nella mia città, a cui io personalmente, anche altri compagni hanno partecipato, anche di altre formazioni politiche, allora, l'abbiamo sentito di tutto, dalla critica radicale al capitalismo, alla neoglobalizzazione, diciamo anche interventi di medici che ponevano il problema legato alla questione della riappropriazione della sanità sul territorio, cioè partire da questi medici di base. Il sottoscritto dal medico di base ormai non lo vede più, ha un rapporto solo via email, non gli ho fatto leggere neanche le mie analisi ormai, e quindi il problema del ripristino della sanità domiciliare, dell'assistenza domiciliare, delle case della salute, e quindi dell'assunzione di questo, del personale, così come anche nelle scuole, personale socio-educativo, insieme ad insegnanti, a bidelle e tutte le categorie che sono importantissime. E invece che assistiamo nuovamente a classe pollaio, scuole che cadono, e poi poniamo il problema scuola aperta sì, scuola aperta no, sperando che noi abbiamo nuovamente questo revival. Il problema è se dove noi, allora il problema è che l'insegnamento, i bambini, non deve essere impedito, così come non deve essere impedito il diritto al lavoro di chi lavora nella scuola. Questa è la cosa fondamentale, stessa cosa nella sanità. Ora mettiamo un altro poco, qualche altro contributo musicale, poi ci avviamo al termine. Ecco, partiamo fra poco. Ok. La vita moderna ti stressa, è una mappina e tu lo fai a cocaina? No! Riapproviamoci degli spazi, riapproviamoci di ciò che è nostro, riapproviamoci della nostra vita, non lasciamolo trascorrere così ripetutamente! Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Mi sveglio la mattina, ripetutamente. Ma sento una mappina, ripetutamente. Mi vorrebbe una aspirina, ripetutamente. Una cosa più potente. Ripetutamente, giornata produttiva, che giornata andare a lavorare. A qualcuno se ti ammali tanti soldi devi dare. A qualcuno se tu studi le tasse poi devi pagare. A qualcuno se tu viaggi biglietti poi devi pagare. A qualcuno per svariare ancora soldi devi mollare. Qualcuno se la gode mentre aspetti di morire. Qualcuno che fa di tutto per impedirti di pensare. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Qualcuno ha organizzato questa storia divertente. Qualcuno ha tanti volti ma una sola è la sua mente. Ti penetra nel sangue, diventi un suo inserviente. Qualcuno sul lavoro, qualcuno a casa mia. Qualcuno è l'eroina, qualcuno a polizia. Qualcuno sangamara, rinta friggitoria. Qualcuno è una maniera, gira e botta tancatena. Qualcuno senza nome, tutto chiamano sistema. O sistema tancatena, o sistema tancatena. Sistema, sistema, sistema che tancatena. Sistema sul lavoro, sistema a casa mia. Sistema l'eroina, sistema polizia. Sistema sangamara, rinta friggitoria. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Per una tarish ve cosa ripetuta me. Tarish a 99 cose che le nasa me. Per una tarish ve cosa ripetuta me. Hagamore l'eroino, guerne a polizia. Na vola fanna, na consultaria. Cascia denetto quando a mano. Ca forza l'arroganza. Perciò arabo lo che invece sta che mano in coppa panza. Officina 99, lui hanno occupata. Ma mezza chi stice sogno, tripa la passata. Vai a fare un corteo, ve spazio sociale. Tu fai riesci urna, puscio riala. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Cristiana, ripetutamente. Partito socialista, ripetutamente. Leghe e fascisti, ripetutamente. Democratici di sinistra, ripetutamente. Rifondazione comunista, ripetutamente. Alla presidenzialista, ripetutamente. Prefetto e ministro, ripetutamente. Del Green Pass, facendo anche un passaggio indietro. Non dimentichiamoci che noi, come devo dire, cosa ci eravamo promessi? Che una volta uscita, ecco, dai domiciliari, cioè durante il periodo della pandemia, lockdown, eccetera, eccetera, avevamo promesso di incentivare determinati movimenti di lotta, anche ideali, quindi è di una messa in pratica, di una critica radicale al sistema capitalistico, che è il colpevole della distruzione ambientale, della sanità pubblica e della scuola pubblica. Ed ecco perché, ecco, passiamo pure a un'altra questione. Il termine che più si confaccia a sta storia del Covid-19 che stiamo vivendo è, diciamo, la distinzione tra pandemia e sintemia. Allora, sempre per parlare di Green Pass, eccetera, eccetera. Allora, se noi vediamo il termine questo dalla Treccani, la sintemia da Covid-19 è l'insieme di problemi di salute ambientale, sociale ed economici prodotti dall'interazione sinergica di due o più malattie trasmissibili e non trasmissibili, caratterizzata da pesanti ripercussioni, in particolare sulle fasce di popolazione svantaggiate. E mi sembra che sto Covid si avvicina più al concetto di sintemia più che pandemia. Che la pandemia è il rifacimento di epidemia, è chiaro, ci sta un termine greco, io non ho fatto il greco, di tutto il popolo, pandemio, epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè invadere rapidamente vastissimi territori e continenti, come la cosa influenzale e la pandemia vaiolosa. Però è chiaro che rivedendo tutta la storia del Covid, ecco, il termine più adatto sembra essere più di sintemia, tant'è vero che questo Covid a chi ha colpito per la maggioranza? Gli anziani e le persone che avevano tantissimi problemi. Ricordiamo che la distruzione ambientale, l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, lo smog, eccetera, ha reso i nostri organismi molto indifesi, per cui facilmente attecchibili da qualsiasi tipo di virus. Ecco, tanto è vero se specialmente nel nord e nel nord-est la pandemia ha prodotto più morti, è proprio proprio là dove il problema, diciamo, ecco, ambientale, quando diciamo ambientale, il problema, diciamo, di tutti i fattori che rendono l'organismo più debole attecchito, insomma, quindi vi sono serie riflessioni che, diciamo, specialmente nel nord, perché il nord dal punto di vista ambientale è quello più sconquassato, e poi dove nel nord, poi non parliamo proprio, specialmente in Lombardia, il sistema territoriale della sanità era propriamente cancellato. Noi nel nord, nel sud, grazie anche delle forme di lotta, anche alle lotte disoccupate che sono andate nella sanità, diciamo ancora manteniamo forme di sanità territoriale, ma che sono, se non ci sta una mobilitazione, rischiamo che è proprio il totale azzeramento. E bisogna avere la consapevolezza, appunto, che questa pandemia ha sconvolto cioè tutti gli assetti mondiali, sociali, che a cui eravamo, come devo dire, erano dei nostri punti di riferimento. È chiaro che, questo sconvolgimento ci ha trovato impreparati, anche se siamo vedendo che, diciamo, ecco, bisogna tenere conto che qualcuno può essere d'accordo, qualcun altro non può essere d'accordo, che la percentuale dei vaccinati oggi si attira l'80%, e che almeno, sarebbe, questa è sempre stata la soglia, addirittura il 70%, per uscire dallo stato emergenziale, quindi che permetterebbe di limitare o eliminare forme di precauzione che sono invasive, come la questione del Green Pass. Questa è la faccenda, invece non sta andando così. Addirittura oggi è uscita la notizia su un giornale, qui non è un giornale né antagonista né Novax, è un giornale finanziario, che diceva che non so quante centinaia di milioni di medicine monoclonali proprio per contro il Covid sono state dimenticate nei frigoriferi, e che avrebbero potuto curare e limitare e ridurre la mortalità di tutti questi periodi. Io non sono né un medico né uno scienziato, però escono sempre fuori più queste contraddizioni. Non si usa più di farmaci, non si usa parlare più di medicine, ricorso a medicine e via dicendo, insomma. E quindi la storia del Green Pass è diventato veramente uno specchietto per l'allodole, per cui lo Stato non si assume la responsabilità dei rischi, cioè, tu ti vai a vaccinare, ti assumi tu il rischio. E quindi abbiamo soltanto forme, queste campagne mediatiche che, come devo dire, vanno da discussione serie a discussione totalmente, intimidatorie. Non si ha la consapevolezza del ricorso alla scienza come bene collettivo. Stiamo creando dei nuovi mostri, insomma, questo è il problema. Quindi ecco la questione, perché uscire da questo pantano, il pantano derivato, il pantano che si sta determinando su questi dibattiti, sperando che la discussione, il dibattito lo apriamo sulla questione del Green Pass, anche come forme di partecipazione, di impegno, ma non su sta questione vaccini sì, vaccini no, perché non esiste proprio che cadiamo in questa situazione. Ricordiamo che sono diventati questa storia del Green Pass e dei vaccini strumenti di distrazione di massa, ecco, non si parla, le cose che abbiamo detto prima, insomma, rischiano di diventare secondarie. E poi la questione, ricordiamo che bisogna anche, come devo dire, rendersi conto che questi movimenti Novax non hanno mai individuato nei centri di potere, nella Confindustria, nella regione il nemico, bensì le cose si dirigono verso gli ospedali, sulle libertà individuali, facendo il tifo di alcuni medici e scienziati, quindi come devo dire, a volte con spesso con teorie che si avvicinano a quelle di Cannon, che ricordiamo che hanno assimilato il Covid a un'influenza, eccetera eccetera eccetera eccetera. Allora, che dire, ma ci avviamo a una fase conclusiva. È normale che, per dire, ecco, no, l'elenco delle cose da parlare è tantissimo, non abbiamo parlato della questione dell'Afghanistan, non abbiamo parlato della questione dei sommergibili, gli accordi tra Biden e Johnson sui sommergibili in funzione anti-Cina. Noi siamo sempre nella perenne, nel filo sottile che può, come devo dire, che regge questi conflitti mondiali, che si rischia sempre di arrivarci in tutto il pianeta, insomma, dai mari, per terra, via terra, la creazione di un ampio fronte militare, economico, finanziario anticinese e antirusso. Abbiamo tantissime cose da parlare. Mi avvio alla conclusione dicendo, fortunatamente, nella metà della settimana prossima le elezioni sono finite, almeno quelle amministrative, e i nostri sforzi debbono essere concentrati a rilanciare i movimenti di lotta locale, a partire dalla questione della sanità pubblica, la questione del lavoro, la difesa dell'ambiente, anche a preparare questo sciopero generale dell'11 ottobre, e anche cercando di includere in questa cosa anche una nostra presenza per la raccolta firma del referendum, che noi lo dobbiamo spostare proprio per ritornare a parlare sul problema della la difesa della sanità pubblica come bene pubblico e contro ogni forma di privatizzazione e speculazione sugli esseri umani, sull'umanità e sul pianeta. Ridiamo la nostra solidarietà a Mimmo Lucano e a tutti quei compagni, come per dire Cesare Battisti, ci sono tante vicende legate alla repressione, quindi abbiamo un lunghissimo elenco sulla questione della repressione, sarà frutto di un'altra trasmissione. Quindi noi con oggi ricordiamo, abbiamo ripreso in diretta dal centro sociale trasmissione Contrappunto, che ricordiamo andrà sempre in onda ogni venerdì a partire dalle ore tra le 18 e le 18:30. Un ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Asilo. سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية جوكاري كومندو